Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia e buonasera da Sebastiano Barisoni. I mercati anche oggi stanno per chiudere in positivo, quindi diciamo dopo la giornata pesante di lunedì la settimana potrebbe essere una delle migliori degli ultimi tempi, nel senso che l'America adesso guadagna l'1,7%, Francoforte più 1,5, Parigi più 0,80, Londra più 0,5, bene Milano, molto bene, è la migliore in Europa, più 2,3% l'S&P MIB, più 1,90 il MIBTEL, di nuovo forti alcuni bancari, direi quasi tutti, con il Banco Popolare in rialzo dell'8% a 2,40 euro, Unicredito del 6,4 a 92 centesimi di euro, quindi torna sopra quota 90, e Monte dei Paschi in rialzo del 6,3%, bene anche la Popolare di Milano più 5,5% e un po' in controtendenza, diciamo così, Intesa San Paolo che guadagna solo lo 0,2% a 1,70 euro. Tra gli altri titoli, bene Autogrill più 7%, Enel più 6,80%, oggi Enel ha fornito i conti, ne parleremo, perché su Enel si sono avanzati anche alcuni dubbi nel passato sul costo dell'operazione per acquisire Acciona, l'aumento di capitale da 8 miliardi, ma il mercato premia oggi i numeri diffusi dal numero uno Fulvio Conti. Unicredito, abbiamo detto, Pirelli più 6,20, Telecom più 6%, Italcementi più 5,60, ancora Seat pagine gialle più 4,3 e Impregilo pure, Unipol più 4%, Terna più 3,70, A2A più 3,40, Mediaset più 3,40, Parmalat più 2,6 come Eni, e UbiBank guadagna il 2,5%. In positivo anche Saipem più 2 e Fiat più 1,6%. Perde tanto Bulgari, meno 8%, Mondadori meno 3,60, Atlantia meno 3,2 come Fondiaria, Finmeccanica perde ancora dopo i conti diffusi, meno 2,5%, sotto i Finmeccanica sotto, quasi vicino ai 9 euro per azione, 9,14 euro, Lottomatica meno 2,3, Alleanza meno 2%, Mediobanca meno 1,80, Generali meno 1,4, Mediolanum meno 1,3%, i migliori e peggiori in assoluto, Tiscali di nuovo molto forte, più 10%, e anche un titolo più sottile come Poltrona Frau, più 11,2%. Sul fronte opposto invece Bulgari è tra i peggiori e anche un titolo come Grandi Viaggi perde l'8,93%. Vediamo l'euro a 1,28, quindi rafforzamento sul dollaro, e anche sulla sterlina a 92 pence per un euro. Come sempre l'ultima cifra in apertura del programma è quella che riguarda il numero per i vostri sms, 349-238-6666, di cosa ci occuperemo oggi. Beh, ci occuperemo di un insieme di dati economici diffusi nell'ordine dalla Banca Mondiale, dalla Banca Centrale Europea e anche dall'Istat, sono tutti numeri brutti, ve lo dico subito, è importante soprattutto il raffronto da quanto tempo non vedevamo queste cifre. L'Istat conferma il PIL, come già i nostri GR vi hanno ricordato, in calo dell'1% l'anno scorso, ma soprattutto una frenata brusca nell'ultimo trimestre del 2008, meno 2,9, quindi si entra nel 2009 con il freno a mano tirato. E ancora poi la Banca Centrale Europea prevede una deflazione a metà anno, quindi inflazione negativa, come si potrebbe anche definirla. E allora, dopo i conti su base economica, ci occuperemo anche delle misure del governo, bocciato l'emendamento del PD sull'assegno di disoccupazione. Di nuovo però i dati che arrivano dal centro sud di Confindustria sulla cassa integrazione sono preoccupanti, ma anche quelli che arrivano sempre dal centro sud di Confindustria sul numero di imprese verso cui si starebbe applicando la stretta del credito, e quindi i rubinetti chiusi delle banche. Il 10% delle imprese, secondo il centro sud di Confindustria, soffre di una stretta sul credito. E tra l'altro domani, siccome queste imprese sono soprattutto purtroppo piccole imprese, piccole e medie imprese, domani sarà al centro della prima giornata di lavori a Palermo del convegno biennale della piccola industria di Confindustria, domani e poi anche sabato trasmetteremo domani da Palermo il programma Focus Economia e poi avremo anche degli approfondimenti il sabato. E allora le altre notizie in breve. L'Unione Petrolifera oggi diffonde i dati sui consumi di prodotti petroliferi che a febbraio sono calati dell'8% rispetto al febbraio del 2008. I consumi di benzina sono scesi del 9% e quelli del gasolio del 10%, ossia abbiamo consumato a febbraio 81.000 tonnellate in meno rispetto a febbraio 2008 di benzina e 220.000 tonnellate in meno di gasolio rispetto appunto al consumo del febbraio 2008. Nel frattempo il petrolio continua a stare sopra i $40 al barile, ma non dà segnali, diciamo, eccessivamente preoccupanti. Ormai sconta, da quello che capiamo, anche l'atteso taglio della produzione che decideranno i paesi OPEC la prossima settimana a Vienna, e quindi oggi ha aperto a $43.6 al barile. Quello che questa mattina ha spaventato molto i mercati è stata la chiusura di Tokyo, meno 2,4%, però lì c'è stato un dato sul Giappone che è arrivato, diciamo, alle 2 di notte ora italiana, che sto quello a preoccupare particolarmente i mercati. Il Giappone ha segnato un meno 12% come andamento del PIL nel quarto trimestre, ossia il calo peggiore da 35 anni a questa parte. Allora iniziamo con il racconto, con il diario di questa crisi. No, non partiamo con il gufo, lo dico a chi sta già scrivendo, perché in realtà non partiamo con il gufo perché i mercati oggi vanno bene, non è tutto negativo, per cui usiamo il gufo con parsimonia, tanto ce ne saranno di momenti, ma andiamo avanti invece con le altre notizie. In breve, dicevo, in Cina continuano ad arrivare segnali di un rallentamento abbastanza sensibile dell'economia cinese, non solo il dato dell'export di ieri, cali superiori al 25% sia nelle esportazioni che nelle importazioni cinesi, anche la produzione industriale in Cina rallenta, nei primi due mesi dell'anno ha fatto un più 3,8% contro un più 15% dei primi due mesi del 2008. E dalla Germania non arrivano dati migliori, produzione industriale meno 7,5%, un vero e proprio crollo superiore a ogni attesa degli analisti, si attendevano un meno 3%, e tra l'altro la contrazione, il meno 7,5% è il calo, diciamo, a gennaio, ma su base annua la produzione tedesca ha avuto un calo di quasi il 20%, il 19%. Iniziano anche alcune revisioni di rating. General Electric, che è il colosso americano, il più grande gruppo americano, e la sua divisione finanziaria hanno perso il rating di AAA di Standard & Poor's per la prima volta dal 1956. Proprio il voto è stato portato da AAA a AA+, ma proprio per i rischi, per i potenziali rischi che potrebbero generarsi da parte della divisione finanziaria di General Electric. E mentre sul fronte dei paradisi fiscali Liechtenstein è pronto a collaborare e quindi riconoscere gli standard dell'OCSE in materia di fisco e trasparenza, e Andorra abolirà il segreto bancario entro il 2009 in modo da uscire dalla lista dei paesi fiscali, oggi anche il Belgio si appresta ad allentare il segreto bancario per un maggiore scambio di informazioni. È chiaro che tutto il tema dei paradisi fiscali, su cui torneremo, si lega anche ad alcuni casi particolarmente gravi di questa crisi già grave di per sé stessa. Mi riferisco a quello di Bernard Madoff, che oltre che dichiararsi colpevole di tutti gli 11 capi di imputazione La truffa di Madoff è la più grande nella storia di Wall Street, 50 miliardi di dollari, e rischia 150 anni di reclusione. E il giudice, tra l'altro, oggi ha chiesto, ha negato gli arresti domiciliari a Madoff, ha detto vada in carcere subito. Madoff, il giro, diciamo, l'aeroplanino, la catena di Sant'Antonio, il metodo Ponzi, chiamatelo come volete, di Madoff si basava tantissimo sui paradisi fiscali. Il sospetto è che molti di questi guadagni fatti a Wall Street, ma non solo, in questi anni con la leva, siano poi finiti, e con i prodotti tossici, siano finiti nei paradisi fiscali, soprattutto quelli dei top manager di Wall Street. Della classifica dei miliardari, quella stilata come ogni anno dalla rivista americana Forbes, vi hanno già raccontato i nostri GR. Comunque Bill Gates torna ad essere l'uomo più ricco al mondo. Tra l'altro, secondo quanto riporta oggi Forbes, la crisi finanziaria ha colpito anche i ricchi, ricchissimi, perché il numero di miliardari del pianeta si è ridotto di almeno il 30% nell'ultimo anno. I più colpiti sono stati i miliardari russi, indiani e turchi. Bill Gates, con i suoi 40 miliardi di dollari, ha riconquistato, come dicevamo, il primo posto, superando l'americano Warren Buffett, che ne ha 37, e poi il magnate messicano delle telecomunicazioni, l'uomo, terzo uomo più ricco del pianeta, ossia Carlos Slim, che di patrimonio vanta 35 miliardi. Il primo italiano è Michele Ferrero, e quindi il padre della Nutella al 40° posto, un patrimonio valutato intorno a 9 miliardi e mezzo. Seguono al 70° posto il presidente del Consiglio Berlusconi e la famiglia con 6 miliardi e mezzo, e poi Leonardo Del Vecchio subito dopo con 6 miliardi e 300 milioni di dollari di patrimonio. Già ci chiedete di Enel, ne parleremo fra un attimo. Comunque l'aumento di capitale avverrà entro il 2009 di 8 miliardi, il tesoro aderirà, l'utile netto del 2008 è cresciuto a 5 miliardi e 290 milioni, un più 35% l'utile netto di Enel nel 2008, tant'è che il dividendo è confermato a 49 centesimi di euro per tutto il 2008, 20 centesimi Enel li ha già versati. E ancora poi parleremo anche dei ricavi, aumentati del 40%. Adesso però i dati su questa crisi: mentre le borse continuano a essere ben intonate, più 1,8%, le notizie peggiori, e Milano sta guadagnando il 2%, le notizie peggiori arrivano non dalla finanza, non dai mercati, come ormai avviene da qualche giorno, ma dalla cosiddetta economia reale, o per meglio dire macroeconomia. Dicevamo, aperto le danze in Giappone, questa notte, a luna di notte ora italiana, il PIL del quarto trimestre è meno 12%, il peggior dato nell'ultimo trimestre 2008 per il Giappone da 35 anni a questa parte. Poi ha continuato la Banca Mondiale questa mattina, che ha previsto una contrazione dell'economia, del PIL mondiale, tra un meno 1 e meno 2%. Ora, potrebbe essere tanto o poco, la cosa importante è che questo livello, meno 1, meno 2, non si vedevano dagli anni 30. E qua forse un gufo potrebbe scattare, ma aspettiamo, non si mette il gufo con un 2,5% di rialzo, lo dico al tecnico che stava già partendo con il suono dell'animale. Andiamo avanti, il Fondo Monetario, sempre in questo diario della crisi, ha detto le previsioni globali si stanno deteriorando, e per questo, per la prima volta dalla Seconda Guerra Mondiale, la crescita economica potrebbe andare sotto lo zero. Voglio dire, si parlassero la Banca Mondiale e il Fondo Mondiale, perché il Fondo Monetario Internazionale dovrebbe leggere quello che ha appena detto oggi la Banca Mondiale, che ha già previsto un meno 1, meno 2%. Nel frattempo in Russia il pacchetto anticrisi vale il 12,5% del PIL, di cui il 4,5% destinato al settore sociale, lo ha comunicato oggi lo stesso premier russo Vladimir Putin. E il dato americano, superiore alle stime sulle richieste di disoccupazione, sono salite a 654.000 unità. Passiamo all'Europa, allora. L'Europa oggi vede da un lato un bollettino della Banca Centrale Europea che dice l'inflazione andrà sotto lo zero a metà anno, quindi deflazione. Però poi dovrebbe tornare a crescere un po' nel 2010. Attenzione al protezionismo e i tassi all'1,5% assicurano, diciamo, la stabilità dei prezzi a medio termine, ma oggi il numero uno Jean-Claude Trichet ci ha tenuto a sottolineare che non ha mai detto, non si è mai deciso che l'1,5% sia la soglia minima dei tassi, quindi lasciando la porta aperta anche a ulteriori riduzioni. Dalla Banca Centrale Europea all'Italia, perché? Perché oggi l'Istat ha confermato un meno 1% nel PIL italiano nel 2008, e va bene, questo già lo sapevamo, ed è il maggiore calo del 1975. Lo dico perché le percentuali contano quel che contano, l'importante è la serie storica per capire da quanto non calava così tanto il PIL. L'effetto trascinamento sul 2009 è pesante perché è di un meno 1,9%. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se facessimo una crescita pari a zero quest'anno, cioè il PIL restasse fermo, chiuderemmo già con un meno 1,9%. È quello che ci portiamo come eredità dal 2008. Perché? Perché l'ultimo trimestre del 2008 si è chiuso con un meno 2,9%, anche qui più della percentuale vale il raffronto storico, mai così male dal 1980. Attenzione, perché 1980 è da quando esiste la serie statistica di questi dati, quindi non sappiamo in realtà il raffronto prima dell'80. Sicuramente da quando esiste la serie statistica dell'Istat sui trimestri non era mai andato così male il PIL italiano. E tant'è che il Centro Studi Confindustria, nell'ultima data, nell'ultima congiuntura flash distribuita in occasione della giunta confindustriale, ha fatto notare come siano quasi il 10% le imprese italiane che sono vittime di fatto di una carenza di credito bancario. E, tra l'altro, il saldo netto dei giudizi delle aziende è del 24,5%, proprio mentre aumenta il fabbisogno, cala l'offerta di credito, e questo ne prendiamo atto, visto che su questo c'è una battaglia di numeri. E sempre la Confindustria dice: attenzione, la cassa integrazione guadagni si avvicina ai massimi dal 1993, il monte ore di cassa integrazione utilizzato è stato pari all'1,1% della forza lavoro, e quindi il picco del 93 era dell'1,4%. Ma dice sempre il Centro Studi Confindustria, siamo ancora lontani dai livelli del 1984, quando il picco toccò il 2% di tutte le ore, di tutta la forza lavoro in cassa integrazione. Ed è un dato, anche questo, che viene riconfermato oggi dal ministro Sacconi, che dice ci sono degli aumenti significativi, ma siamo ancora per fortuna lontani dai picchi degli anni 80. È vero, ci sono stati aumenti significativi rispetto all'anno precedente, ma se è vero che nei mesi di gennaio-febbraio 2009 si sono riscontrate 72 milioni di ore di cassa integrazione, anche proiettandoli secondo ragionevoli possibilità di crescita per quanto riguarda i prossimi mesi, siamo molto lontani dai picchi di ore non lavorate nel 1984, quando arrivammo a 816 milioni e mezzo di ore non lavorate. Sembrerebbe piuttosto che ci si avvicini alle ore non lavorate dei primi anni 90, quando raggiungemmo circa i 550 milioni di ore non lavorate. Quindi c'è certamente un peggioramento nel monte di ore lavorate, ma per fortuna nel quadro complessivamente sfavorevole questo minore numero di ore lavorate si affianca ad un mantenimento dei rapporti di lavoro consentito dalla strumentazione di cui disponiamo, in modo particolare dallo strumento della cassa integrazione, e siamo ancora lontani dalla dimensione delle ore non lavorate che abbiamo conosciuto anche in epoca recente, soprattutto a metà degli anni Ottanta. Ed è innegabile che, dati alla mano, il ricorso alla cassa integrazione attuale ci riporti più al 93 che non a metà degli anni 80. Mi fanno notare dalla regia che forse ho detto Enel l'acquisto di Aziona, chiaramente l'acquisto è di Endesa, venduta quanto a quota da Aziona. Ma andiamo avanti con la politica e la crisi. Intanto saluto e ringrazio per averci raggiunto in collegamento Dino Pesola del Sole 24 Ore. Dino, buonasera. Buonasera Sebastiano. Ti farei ascoltare ancora alcuni interventi, visto che il ministro Sacconi ha parlato in aula alla Camera, dove appunto è stato bocciato la proposta, l'emendamento Franceschini di un assegno alla disoccupazione. Però prima ti farei ascoltare oggi che cosa ha detto il ministro dell'economia Giulio Tremonti, parlando a margine di un convegno sull'agricoltura, quanto il governo farà per non lasciare indietro nessuno, pur ammettendo che la crisi economica in questo momento è una terra incognita. Siamo in terra incognita. Siamo in una terra della quale conosciamo alcuni elementi, ma non tutti. Sappiamo che dobbiamo andare avanti, che non è semplice. Siamo certi di fare il massimo possibile per non lasciare indietro nessuno, ma oggettivamente terra incognita. Perché? Per una ragione piuttosto semplice. Stiamo vedendo adesso che non solo la crisi è globale nella dimensione, nell'impatto, ma è globale anche nella causa. La crisi che stiamo attraversando ha causa nella globalizzazione, nel tempo e nel modo con cui è stata fatta la globalizzazione. E torniamo al dibattito parlamentare, perché oggi, sempre in aula alla Camera, il ministro Welfare Sacconi ha detto: vabbè, la crisi sembra avere ancora effetti contenuti, la crisi sociale come conseguenza della crisi economica connessa a sua volta con la crisi dei mercati finanziari sembra allo Stato avere ancora effetti molto contenuti. E poi è andato sul tema dei sussidi e quindi il no del governo alla proposta di Franceschini. ...17:36 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni. Tra poco arriveremo anche ai mercati. Sui massimi la chiusura: più 2,1% il Mibtel, più 2,6% l'S&P Mib. Milano la migliore oggi in Europa. Decisamente adesso ben intonata anche l'America, più 1,8% il Dow Jones e più 1,6% il Nasdaq. Allora, Dino Pesole, il dibattito politico oggi ha conosciuto, abbiamo sentito le dichiarazioni di Sacconi su una cassa integrazione molto alta, ma più simile agli anni 90, al 93 che non all'85, le stime molto molto pessimistiche, più che stime, i dati dell'Istat, un calo mai così forte nel quarto trimestre dal 1980, da quando esiste la serie statistica, la Banca Mondiale che ci dice che l'economia mondiale nel 2009 non crescerà mai, non è mai cresciuta così poco dagli anni 30, e complimenti. Prima di arrivare al tema dei sussidi, degli incentivi, vorrei capire, visto che domani c'è un Consiglio dei Ministri, che margine di manovra ha il governo, anche perché i soldi utilizzati nel pacchetto anticrisi, ma anche per quelli soprattutto per la cassa integrazione, erano già disponibili 7-8 miliardi, forse 9 in tutto, da fondi europei. Detto questo, i soldi sono finiti? Diciamo che i soldi sono, bilancio alla mano, sono finiti, nel senso che alla luce, diciamo, dell'andamento della finanza pubblica di quest'anno è ben difficile poter prevedere al momento spazi di manovra aggiuntivi. Per la verità ci sarebbero, ma bisognerebbe fare operazioni, diciamo, abbastanza forti di contenimento della spesa o di recupero di evasione che è difficile ipotizzare nell'immediato. Io penso che il governo comunque tenterà ancora di seguire la strada di utilizzare fondi che sono già nel bilancio. Più volte il ministro Tremonti ha ricordato, in questo credo che gli si possa dare ragione, che il vero problema del nostro paese non è tanto quello di creare e cercare nuove risorse, è anche questo, ma prevalentemente è quello di cercare di spendere le risorse che già ci sono, e questo perché noi abbiamo cronici ritardi, ad esempio, nel mettere in moto il processo di attivazione dei fondi comunitari. Quindi anche in questo si può immaginare che se c'è un'accelerazione la si vedrà nei prossimi mesi. Per quanto riguarda la riunione di domani del governo, si annuncia interessante, ma non credo che ci sarà un via libera già domani al pacchetto cosiddetto sull'abitazione, perché ci sono ricognizioni in corso. Il ministro dell'economia peraltro è volato a Londra, dove stasera incontrerà Gordon Brown, domani ci sono altri incontri, quindi è probabile che domani il Consiglio dei Ministri avvii una prima ricognizione di questo provvedimento. Dovrebbe essere una legge quadro, da quanto si è capito, una legge quadro che dovrebbe aprire lo spazio alle abitazioni private perché possano essere ampliate fino al 20%, per le prime case lo sconto potrebbe arrivare anche al 60%, e le richieste di modifica dovrebbero essere attivate entro la fine del 2010. Allora, detto questo, è chiaro l'intento che c'è dietro questa ulteriore proposta, cioè quella di avviare attraverso l'abitazione, di rimettere in circuito un po' l'economia, perché sulle case, come sappiamo, c'è un volano importante. C'è un aspetto, e non a caso in questo momento ci sono riunioni in corso con le regioni, poiché saranno poi le regioni a dover decidere se e come utilizzare questa parte della legge quadro, c'è un aspetto che riguarda ovviamente la possibilità di prevenire per tempo che questa operazione poi non si trasformi da un lato in un condono mascherato generalizzato, cosa che peraltro non credo che verrebbe consentita anche dall'Unione Europea, e dall'altro che appunto non ci siano abusi, e quindi occorrerà valutare bene come anche dal punto di vista tecnico questa operazione dovrà essere attivata. Sicuramente il piano edilizio, poi vedremo in che formula e in che forma passerà, va nella direzione di dire facciamo ripartire l'economia, soprattutto il settore edilizio, però mi sembra di poter dire, Dino, che in questo momento il tema più caldo, anzi i temi più caldi, riguardano il mondo delle imprese e non solo quello dei privati cittadini. Mi spiego: da un lato la denuncia è arrivata anche oggi dal Centro Studi Confindustria, che dice il 10% delle imprese del paese sono interessate a una stretta creditizia, quindi hanno problemi con le banche, ed è una percentuale altissima. Dall'altro il ricorso alla cassa integrazione. È vero che non siamo sui livelli degli anni al massimo dell'85, ma siamo già tornati al livello del 93 e il governo assicura che ci siano le coperture. La cassa integrazione però sappiamo che copre a spanne un lavoratore su tre. Il problema resta quello di quali forme di più o meno garanzia, solidarietà, contratti di mobilità, chiamateli come volete, dare agli altri lavoratori, quelle delle piccole imprese, delle imprese artigiane, delle piccole imprese manifatturiere e anche tutta la platea dei lavoratori interinali. Allora, oggi bocciata la mozione Franceschini, per arrivare a un assegno mensile di disoccupazione, sentiamo il motivo per cui la proposta non è passata dall'intervento in aula del ministro al welfare Maurizio Sacconi, che ha così motivato il no del governo. Noi dobbiamo rifiutare in questa stagione strumenti che in condizioni di mercato del lavoro e di economia dinamica sarebbero certamente positivi, come gli ammortizzatori automatici, come i sussidi di disoccupazione automaticamente fruibili, che sono in qualche modo connessi con un'idea di maggiore libertà di licenziare per fluidificare i processi economici e sociali. Questi stessi strumenti in una fase di questo tipo diventano invece oggettivamente, al di là probabilmente dell'intenzione dei proponenti, incentivi al licenziamento, incentivi al rattrappimento strutturale, proprio quello che noi non vogliamo produrre. E su questo va detto che invece altri osservatori, soprattutto imprenditori, hanno detto no, ma insomma, licenziare un dipendente quando ce l'hai in casa da anni e l'hai formato e cresciuto insieme a te, sarebbe l'estrema razza. Ma al di là di questo, sentiamo invece come il leader del PD Franceschini ha motivato invece la proposta di un assegno mensile di disoccupazione. Sappiamo che la crisi è globale, che attraversa tutti i paesi, che va affrontata con risposte che vanno ben oltre i confini nazionali. Ma sappiamo anche che la crisi impatta in modo diverso sulle singole economie nazionali e sulla vita delle famiglie e delle persone in base alla forza o alla fragilità della singola economia nazionale. Noi purtroppo siamo tra le più fragili, ma soprattutto impatta in modo diverso in base agli interventi che i singoli governi mettono in campo per fronteggiare l'emergenza. Per fronteggiare l'emergenza della crisi. Abbiamo l'assoluta consapevolezza che le cose che abbiamo proposto, a cominciare dall'assegno mensile di disoccupazione, non sono una risposta strutturale alla crisi, non abbiamo mai pensato a questo, ma sappiamo che proprio in un momento di difficoltà chi guida un paese, al di là del colore politico che rappresenta, ha il dovere di cercare risposte strutturali, di cominciare a lavorarci, ma contemporaneamente di immaginare come affrontare l'emergenza, come affrontare le situazioni drammatiche in cui rischiano di precipitare o sono già precipitate migliaia di persone. E poi sulle pensioni, il ministro welfare Maurizio Sacconi ha detto: in questa stagione non possiamo affrontare una riforma delle pensioni. Dino Pesole, per concludere, vorrei tenere assieme questi due temi, perché da un lato la stessa Confindustria ha detto: la proposta del PD era monca, cioè mancava dalla parte di riforma delle pensioni. Dall'altro è innegabile che se anche, come ricordato oggi dal ministro Sacconi, il tasso di occupazione in Italia sarà intorno al 59%, quindi più alto rispetto a 10 anni fa, è innegabile che si ponga un problema per i 2/3 dei lavoratori, almeno 2/3 non protetti dalla cassa integrazione guadagni. Perché secondo te nel governo non sta prevalendo una linea di dire alziamo l'età pensionabile di un anno, due anni, che avrebbe effetti di risparmio abbastanza immediati? Ma dunque, perché ci sono due corni del problema che si legano insieme, ma che però a mio avviso richiedono diciamo un approfondimento di tipo diverso, perché da un lato c'è la necessità di offrire immediate garanzie a chi prende il posto di lavoro, soprattutto a chi garanzie non ne ha, quindi la necessità di per la cassa integrazione. A questo riguardo devo dire che la proposta del PD ha un suo appeal, non c'è dubbio, perché l'assegno mensile di disoccupazione è una risposta non strutturale, contingente, che però è una risposta. Da questo punto di vista quello che si può dire è casomai valutare i termini di copertura dell'operazione che il Partito Democratico ha individuato nei proventi della lotta all'evasione e che però insomma anche non può, come dire, problematici da quantificare prima che l'operazione venga messa in atto. Quindi il punto debole della proposta del PD, a mio avviso, era nella copertura finanziaria, certo, più che nelle modalità. Per quel che riguarda la riforma delle pensioni, beh, lì il discorso è duplice, perché da un lato l'allungamento dell'età pensionabile per le donne non è una scelta che è in, diciamo, nella facoltà del governo, è una scelta che ci viene chiesta dall'Europa in virtù, diciamo, di un preciso pronunciamento della Corte di Giustizia, quindi lì dobbiamo adeguarci, poi che si arrivi gradualmente a 65 passando per 62, ma insomma credo che questa possa essere la strada. Riaprire invece, qui però il discorso diventa tutto politico, l'intera questione che peraltro già il governo, diciamo, Berlusconi aveva affrontato con il famoso scalone Maroni e che il governo Prodi ha rivisto, rivedendo lo scalone e sostituendolo con una serie di scalini, ricordiamolo, riaprire questo, diciamo, questa discussione adesso rischierebbe di aprire anche, diciamo, un forte contenzioso di nuovo a livello, diciamo, politico-sociale, soprattutto con i sindacati che su questo sono unanimemente contrari. Quindi io credo che il governo abbia fatto e stia facendo una valutazione da questo punto di vista prevalentemente politica. Chiaro, vedo anche che alcuni ascoltatori dicono: beh, ma proprio con questa crisi si potrebbe prendere l'opportunità per chiedere una riforma delle pensioni vista l'emergenza economica. Tu fai bene a ricordare che su questo tema, più che un principio sulle risorse, che verrebbero liberate, si dice 7 miliardi, 8 miliardi almeno, ma il principio è di carattere politico, cioè non creare tensioni dentro la maggioranza e con le parti sociali probabilmente. Però insomma, da qualche parte questi soldi probabilmente dovranno essere recuperati. D'accordo con te che la parte più debole della proposta del PD riguardasse le coperture, perché dire la lotta all'evasione, ora sappiamo tutti che vuol dire tutto o niente. Maggiore coraggio sarebbe stato dire attenzione, si può alzare l'età pensionabile. Comunque, grazie Dino Pesole del Sole 24 Ore. Di nuovo in diretta, allora, buona la giornata, molto buona a Milano, più 2,6 e 2,1 sul Mibtel, buona in Europa, più 0,7 Parigi, più 1% Francoforte, mezzo punto percentuale Londra, l'America guadagna l'1,8 col Dow Jones e l'1,7 con il Nasdaq, bene Monte dei Paschi, più 7,8, Banco Popolare più 7,4, Unicredit più 6,8, Ubibanca più 6,6, Popolare di Milano più 5%, più cauto invece il rialzo di Intesa San Paolo, tra i big bancari è quella che guadagna di meno, anzi perde alla fine lo 0,12%. Il caso dell'ultima mezz'ora si chiama Autogrill, più 9,7%, ed Enel più 7,7%. Due titoli, due società che oggi hanno presentato i dati, i conti. Allora, Livia Zancaner, Radio Cori, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Livia, Autogrill, poi avremo un intero approfondimento su Enel nella seconda parte. Autogrill, ricavi più 19% a 5 miliardi e 8, l'utile cala a 123 milioni, non ci sarà dividendo, molta cautela da parte dei vertici, tondato da Ross nei confronti del 2009, eppure il titolo cresce tantissimo. Sì, in realtà bisogna dire che allora il titolo ha avuto un andamento estremamente altalenante e volatile nel corso della seduta. Infatti, dopo la pubblicazione dei conti, che sono risultati sostanzialmente in linea alle attese del mercato, le azioni sono arrivate a guadagnare oltre l'8% in mattinata. Sono poi scese fino a calare del 4% circa e per poi risalire e chiudere quindi a più 9,77%. Il presidente Gilberto Benetton oggi ha anche dichiarato che la società non pensa assolutamente di ricorrere a una ricapitalizzazione del gruppo e la società, come motivazione della non distribuzione del dividendo, ha citato appunto le incertezze sui tempi di recupero dello scenario di riferimento, mentre per il 2009 Autogrill prevede ricavi e un margine operativo lordo sostanzialmente in linea con quelli del 2008, quindi non sono arrivate particolari notizie negative a giustificare lo scivolone del titolo fino almeno 4% e i conti in linea, quindi a questo punto hanno sostenuto le azioni in chiusura. Questo su Autogrill. Poi sul fronte bancario, dicevamo, il mercato continua a premiare il Banco Popolare, che appunto ha richiesto 1.450 milioni di Tremonti Bond, di obbligazioni di Tremonti, quindi cosa succederà? Il Banco Popolare emetterà delle obbligazioni, quindi una richiesta di prestito che verrà sottoscritta dal Tesoro a un tasso del 7,5, tra il 7,5 e l'8,5%, sono obbligazioni convertibili dopo un certo numero di anni. Se il Banco Popolare non fosse in grado di ripagarle, verrebbero convertite in azioni, quindi di fatto a quel punto lo Stato entrerebbe nel Banco Popolare, ma è un'ipotesi estrema. E il motivo per cui salgono anche gli altri bancari, tranne Intesa, è sempre questo? Sì, allora, in linea di massima il comparto bancario oggi, da partire da metà seduta, è iniziato a trainare tutti gli indici europei, infatti le banche in Europa hanno chiuso con un rialzo più o meno del 3% in media. Allora, sull'S&P MIB hanno inciso in maniera particolare, visto che rappresentano circa il 38% dell'indice, quindi il Banco Popolare addirittura ha portato il guadagno da 10 marzo, quindi giorno in cui ha annunciato la sottoscrizione dei Tremonti Bond, al 27% circa, e anche la partecipata Italisa ha guadagnato più o meno il 20% dallo stesso giorno in cui il Banco Popolare ha confermato per Italisa negoziazioni in stato avanzato per individuare soluzioni da definirsi e attuarsi in tempi molto brevi. Per quanto riguarda MPS, oggi le azioni sono state premiate da un report di Deutsche Bank. Gli analisti hanno alzato il rating sul titolo a hold, così come il rating sul Credem, che infatti ha guadagnato terreno sul Midex. E infatti gli esperti ritengono che in particolar modo per MPS dovrebbe essere favorevole sia l'eventuale utilizzo dei Tremonti Bond e sia la deducibilità di quello che viene chiamato goodwill, cioè l'avviamento. Il report infatti Deutsche Bank si basa su questi due fattori per le banche, sui Tremonti Bond e sulla deducibilità dell'avviamento. I motivi per cui Intesa invece non cresce, mentre le altre banche vanno tra il 5 e il 7% di rialzo? Allora, in realtà dovrebbe esserci un report di Goldman Sachs che, mentre ha confermato giudizio comprare, quindi per il Monte dei Paschi, ha invece dato una raccomandazione vendere a Intesa San Paolo, motivandola con il fatto che le azioni trattano a premio del 30% rispetto alla valutazione delle banche in Europa. Ancora, dopo il GR parleremo di, da un lato, degli assicurativi che oggi hanno frenato un po', mentre bene è andata, lo dico, Telecom Italia più 5,8, ma anche Pirelli più 5,5, Seat più 5,2, parleremo anche di Telecom, ma anche gli energetici oggi sono tutti ben intonati, al di là di Enel, Terna più 3,3 come A2A più 3,4%, Eni più 2,11. Parleremo, dicevo, nella seconda parte del programma di Enel, ma anche di Bulgari, che ha preso una sberla meno 7,2%, Mondadori meno 3,9%, ma anche alcuni assicurativi, che Fondiaria meno 3,5% e Generali meno 1% in una giornata un po' diversa per le banche. minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per parlare di concludere l'approfondimento di borsa e poi occuparci dei conti di Enel, la principale delle società quotate oggi aver diffuso i conti. Di Autogrill abbiamo già detto. Allora, Livia Zancaner, al di là della giornata più che positiva per Milano, soprattutto perché una volta tanto Milano guadagna un punto e mezzo più delle altre borse europee, che è successo a Bulgari, meno 7,2%? Allora, Bulgari ha già risentito della pubblicazione dei conti relativi al 2008, che si sono chiusi con un utile quasi dimezzato. Infatti nel 2008 la società ha mostrato un utile netto di 82,9 milioni, in calo del 45,1% rispetto all'anno precedente, e l'utile operativo è sceso addirittura del 33,5% a 111 milioni di euro. Secondo gli analisti del Credit Suisse, Bulgari ha pubblicato conti al di sotto delle attese e del consensus del mercato, sia a livello di fatturato, sia di EBIT che risultato operativo e di risultato netto. Gli analisti hanno quindi consigliato underperform sulle azioni, cioè che faranno peggio del mercato, con un prezzo obiettivo indicato da 12 mesi a 3 euro. E infatti oggi il titolo si è meno male allineato al target fissato, sì, dagli analisti. Con il giudizio del Credit Suisse. Sì. Vabbè. Gli assicurativi, dicevamo, più deboli, decisamente più deboli rispetto ai bancari, visto che appunto i bancari, lo dico a chi si fosse appena messo in collegamento, oggi hanno avuto di nuovo rialzi che vanno dal 7,86% del Monte dei Paschi al 7,4% del Banco Popolare, al 6,8% di Unicredito e di UbiBanca, e il 5% della Popolare di Milano. Perché Fondiaria meno 3,5% e comunque anche Generali è debole meno 0,6%? Sì, allora, in realtà anche gli assicurativi, come gli altri titoli, hanno beneficiato poi del buon andamento delle borse, quindi del buon andamento di Wall Street, e sono riusciti un po' a limitare le perdite sul finale. Comunque Fonsai ha perso ancora appunto il meno 3,5%, seguito da Generali e Alleanza. Allora, in linea di massima i titoli assicurativi oggi sono stati fortemente penalizzati dallo scivolone di Aviva a Londra. Il titolo ha infatti perso il 10%, e la società è stata penalizzata dal giudizio di Citigroup, che ha tagliato il giudizio a vendere e il prezzo obiettivo da 450 a 160 pence. In realtà la società britannica ha realizzato un rimbalzo nelle ultime due giornate di oltre il 23%, ma nonostante questo rimbalzo, la perdita dal 4 marzo, quando ha pubblicato le ingenti perdite fino a 885 milioni di sterline, resta comunque del 33%. E allo stesso modo comunque anche Generali, Alleanza e Fonsai hanno perso in un mese dal 28% al 35% circa. Ancora andiamo a chiudere per poi passare ad Enel. Tiscali, penso che l'accordo sul debito abbia anche oggi sostenuto il titolo, più 10,7% a 24 centesimi per azione. Se oltre a Tiscali riusciamo a parlare anche di Telecom Italia, molto bene il titolo oggi, più 5,8%. Sì, allora Tiscali ha guadagnato oltre il 61% nelle ultime tre sedute, dopo il meno 47%. Il 61%? Sì, sì, dopo il meno 47% segnato lunedì, quindi appunto il mercato ha premiato la comunicazione delle precisazioni della società, che ha sottolineato che sta continuando a lavorare per la rinegoziazione del debito con le banche, che l'attività in Italia e nel Regno Unito procedono regolarmente. Mm-hmm. Per quanto riguarda Telecom, allora il titolo ha iniziato già positivamente la seduta, grazie in particolare al giudizio di Bank of America, che ha dato alle azioni raccomandazione comprare, quindi incoraggiando gli acquisti già dall'inizio della giornata. Poi nel pomeriggio la società ha ampliato i guadagni complice sia all'andamento dei mercati e del comparto telecomunicazioni, che è salito di oltre l'1%, ma soprattutto grazie alla notizia che l'emissione obbligazionaria da 1,5 miliardi ha riscosso un successo definito dagli operatori sorprendente, in quanto appunto nel giro della giornata, nel giro di mezz'ora, la raccolta è ammontata addirittura quasi 6 miliardi di euro. Insomma, quindi giustifica anche l'andamento del titolo. Grazie a Livia Zancaner, Radio Cori Sole 24 Ore. Adesso restiamo in tema di borsa, perché come ricordavamo i conti principali, oltre a quelli di Autogrill, ben premiata, più 9,80%, i conti più importanti oggi sono quelli diffusi da Enel. E parleremo anche della vicenda Endesa. Comunque oggi presentato in primo luogo il piano industriale 2009-2013 e il bilancio del 2008. L'Enel ha annunciato di aver messo in cantiere un programma di dismissioni, di vendite per 10 miliardi di euro entro il 2010, in modo da avere un debito netto consolidato, quindi tutte le controllate, a 45 miliardi di euro entro il 2010, che poi dovrebbe scendere a 41 miliardi nel 2013. E ancora annunciati 33 miliardi di investimenti per quello che riguarda Enel. Tra l'altro, pur essendo 33 miliardi, sono stati ridotti di circa 12 miliardi rispetto al piano precedente. E il dividendo, ci sono tutti i dati sui conti dell'Enel. Allora, il dividendo viene confermato a 49 centesimi di euro, di cui 20 già versati lo scorso novembre, questo per il 2008. L'utile netto cresce a 5,3 miliardi di euro, un più 35% per l'Enel nel 2008, trascinato soprattutto dall'acquisizione della spagnola Endesa. I ricavi più 40%, risultato operativo più 40%, indebitamento a 50 miliardi in linea con le attese. Però dal 2009 l'Enel proporrà una nuova cedola, ossia una nuova distribuzione degli utili, stop alla cedola fissa. Sarà pari il nuovo programma di dividendo, ossia quando le imprese quotate distribuiscono parte degli utili ai propri azionisti, sarà pari al 60% dell'utile ordinario. E ascoltiamo allora dalle parole del numero uno, Fulvio Conti, intervistato dal nostro Vincenzo Miglietta, quale sarà questa nuova politica di distribuzione degli utili da parte di Enel. Con questi dividendi noi stiamo dicendo che faremo una nuova politica di dividendi che si basa non più su un 49 centesimi come fino ad oggi, ancorché pagheremo 49 centesimi sul conto dell'esercizio 2008, 20 li abbiamo già pagati e 29 verranno pagati nel mese di giugno, il 22 di giugno a tutti gli azionisti, ma da quel momento in poi promettiamo o garantiamo una politica di dividendi basata sul 60% dei risultati netti. E siccome noi pensiamo che i risultati netti saranno crescenti e importanti, crediamo di poter dire che questo dividendo manterrà Enel tra i livelli più alti in termini di rendimento tra tutte le aziende italiane ed europee. Questo per quello che riguarda i conti di Conti, per usare un gioco di parole. Resta sul sfondo il tema di Endesa, ne parleremo. Enel si è comprata, diciamo, dopo una lunga battaglia con la tedesca E.ON, Enel e Acciona hanno lanciato un'offerta nell'estate del 2007 su Endesa, che è l'Enel spagnola, per comprare il 100%. Enel è diventata socio di maggioranza con il 67% e ad Acciona è andato il restante 25%. A febbraio, cioè un mese fa, anche la parte che le mancava, ossia il 25% di Endesa in mano agli spagnoli di Acciona, è stato rilevato da Enel, pagandolo un 80% in più rispetto ai prezzi di mercato come conseguenza dell'accordo, un po' di polemiche e necessitando in questo modo per Enel di un aumento di capitale da 8 miliardi. Di nuovo in diretta per l'ultima parte di Focus Economia. Dicevamo, oltre ai conti e il dividendo annunciato e proposto poi dall'Enel oggi, c'è sullo sfondo la vicenda che ha portato Enel a comprarsi la totalità quasi del principale gruppo elettrico spagnolo. Perché? Perché se nel 2007 l'accordo venne fatto con Acciona, Acciona è un gruppo che ha come studio di riferimento una famiglia importantissima in Spagna che si chiama Entrecanales, però poi nel febbraio di quest'anno Enel si è comprata l'altro 25%. Che cosa è successo? L'ha pagato 11 miliardi. 11 miliardi sono l'80% in più di quanto vale adesso il titolo. Perché? Perché c'era un'opzione put e quindi un accordo preventivo per comprarla e rilevarla a quel livello. Alcuni hanno detto beh, è una cifra eccessiva. Enel nel frattempo ricorrerà a un aumento di capitale, cioè soldi freschi pari a 8 miliardi di euro che, come confermato oggi anche da Fulvio Conti, verrà completato entro il 2009 e vedrà la partecipazione anche del Ministero del Tesoro. Tra l'altro, proprio su questo, sul, diciamo, l'aumento di capitale e il fatto che la Cassa Depositi e Prestiti seguirà per decreto ministeriale la decisione del Tesoro, è tornato oggi il numero uno dell'Enel, Fulvio Conti, sempre intervistato dal nostro Vincenzo Miglietta. Noi chiediamo un aumento di capitale perché abbiamo fatto e stiamo completando una grande espansione internazionale e ci sembra doveroso far ricorso all'aumento di capitale per promuovere la nostra azienda che continua a crescere con risultati che crescono e che garantisce comunque un rendimento a chi sottoscrive le azioni tra i più elevati in Italia e in Europa. E quindi siamo confidenti che questo aumento di capitale sia il passo per il rilancio di una grande azienda che si promuove come leader nel settore dell'energia, che con la dimensione di scala accresce la propria capacità di controllare i costi e che alla fine farà beneficiare tutti i consumatori. Abbiamo fatto una proposta di offrire agli azionisti attuali la sottoscrizione di questo aumento di capitale, questo attraverso l'offerta di opzione. Abbiamo avuto l'interesse del Ministero dell'Economia e Finanze, che è il nostro principale azionista, di voler partecipare a questo aumento di capitale e abbiamo un consorzio di banche che garantisce il buon risultato di questa operazione. Il titolo di Enel è un titolo che nel tempo comunque ha remunerato i propri azionisti, nonostante la crisi dei mercati di borse in tutto il mondo sia evidentemente un danno per tutti. Tra i tanti titoli che noi possiamo vedere sulla borsa italiana e internazionale, quello dell'Enel è quello che quantomeno per i dividendi che ha sempre pagato ha dato un rendimento tra i più elevati. E quindi da questo punto di vista contiamo sulla possibilità che i signori azionisti possano continuare a darci fiducia sottoscrivendo anche questo aumento di capitale. E poi Fulvio Conti ha aggiunto in merito a alcune ipotesi di un interesse del Fondo Sovrano Libico ad entrare in Enel partecipando a questo aumento di capitale. Siamo ben felici che tutti gli investitori che vogliono comprare azioni lo facciano, purché vengano con intenzioni amichevoli, come credo sia il caso della Libia, che sarà anche per motivi storico-coloniali, ma è il fondo sovrano più presente in Italia, poi ne parleremo magari anche un giorno, e molto ben vista anche nelle sue partecipazioni. Adesso, ultimo tema, visto che si è spesso discusso di dei controlli mancati o mancanti nelle grandi banche d'affari americane, ma non solo, della governance, ossia chi deve guardare e controllare che cosa, come si distribuiscono i poteri, oggi in occasione della CISA annuale dei commercialisti e degli esperti contabili, perché commercialisti e ragionieri si sono fusi come ordine professionale un anno fa, oggi abbiamo intervistato, vi facciamo ascoltare l'intervista, il presidente dell'ordine, ossia Claudio Siciliotti, che rivendica proprio anche al commercialista, all'esperto contabile, un ruolo di controllo, di garanzia all'interno delle società. E tra l'altro poco fa il ministro della giustizia Alfano, intervenendo oggi alla loro assise, ha detto che il presidente del Consiglio Berlusconi è pronto ad incontrare i commercialisti e i revisori contabili. Allora sentiamo quale potrebbe essere il ruolo nella governance delle società dalle parole del presidente Siciliotti. Credo che intanto debba essere confermato il ruolo del collegio sindacale così com'è. Così com'è. Già questo è un elemento importante e probabilmente è un ruolo che va esteso. Io faccio un ragionamento. Oggi se io e lei vogliamo fare impresa, lo possiamo fare in diverse forme, assumendo la responsabilità illimitata. Perché no? Potremmo fare una Fiat SNC, non è vietato dalla legge, ma non lo si fa perché normalmente si risponde con tutto il proprio patrimonio e non tutti giustamente sono disponibili a farlo. Ma io mi domando, se si vuole acquisire il ticket della limitazione della responsabilità, non bisogna anche pagare al contempo la necessità di subire un controllo? Ma dovrebbe essere così per tutte le società a responsabilità limitata. Se vogliamo esentare, diciamo, quelle più piccole, facciamolo, ma consideriamo che probabilmente il collegio deve essere mantenuto in tutte le situazioni nelle quali attualmente c'è e probabilmente, a mio giudizio, nell'interesse della collettività, esteso in tutte quelle situazioni in cui vi sia utilizzo di denaro pubblico superiore al capitale di rischio e in tutte quelle situazioni in cui ci sia un determinato rapporto di indebitamento, per cui è necessario che ci sia un controllo per controllare l'evoluzione di una situazione che da patologica, da fisiologica, mi scusi, non diventi patologica. Io credo che i professionisti terzi possano assicurare questo nell'interesse della collettività. Tutto questo costa. Il collegio sindacale costa. Questa crisi ha bruciato un terzo della ricchezza mondiale, forse anche qualcosa di più. È costato qualcosa di più alla collettività di quanto non costi un controllo preventivo. E quindi attenzione, perché i costi non sono assoluti ma sono in prospettiva, d'accordo con lei. Però basta poi, Siciliotti, che anche il collegio sindacale, come le agenzie di rating, come i revisori appunto in generale, che tutti siano onesti, perché poi abbiamo visto le agenzie di rating anche questa volta arrivare con voti altissimi poco prima dei fallimenti. Allora lì c'è un problema di conflitto di interessi, così come i collegi sindacali delle volte girano la testa dall'altra parte. In Parmalat questo avvenne e vi furono tirati in mezzo collegi sindacali, revisori, società di certificazione di bilancio, società di rating. Quindi l'importante poi è che vi siano anche delle punizioni e dei controlli. Dobbiamo creare un sistema che funzioni, poi la qualità e l'onestà dei singoli, questo appartiene alla loro etica, certo, individuale, però il sistema deve tendenzialmente mettere il vigile nella capacità di elevare la contravvenzione. Mi tolgo una curiosità, Presidente Siciliotti, per quello che riguarda invece il suo lavoro di commercialista e dei suoi associati tutti i giorni, voi come polso indiretto di questa crisi notate una riduzione nelle dichiarazioni, una difficoltà anche appunto in quello che si porta, mi passi il termine, dal commercialista, oppure no? Non siamo ancora nel pieno della campagna bilanci e nel pieno della campagna dichiarazioni, però indubitabilmente i segnali sono segnali di flessione e sono i segnali di preoccupazione. C'è anche, come dire, la convinzione che magari il peggio deve ancora arrivare, purtroppo. E quindi c'è un momento sicuramente di difficoltà, però dalle difficoltà si rinasce. L'importante è che questa crisi non sia il capolinea di un sistema, ma fosse uno spartiacque in cui regole e comportamenti che meritavano di essere modificati vengono modificati e poi utilmente si riparte e ci si rimette a correre. Questo paese ne ha molto bisogno. Così il presidente dei commercialisti dei ragionieri Claudio Siciliotti, scusate, oggi continua l'assise a Torino. Da Sebastiano Barisoni è veramente tutto, a voi in ascolto un augurio di buona serata, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi in diretta da Palermo.